A bordo campo di Dario Ricci. Il cross di Emanuelson, Vidal lo mette fuori, Maxence Buffon e poi Sulle. Eh sì, era proprio dentro quel colpo di testa di Muntari, parato ben oltre la linea di porta da Gigi Buffon in un infuocato Milan-Juventus che, oltre che per l'1-1, passerà alla storia soprattutto per questo gol fantasma. E allora ci è venuta curiosità a noi di Radio 24 qui a bordo campo di andare a vedere che cosa si sta facendo, non tanto nel calcio, perché il calcio ci mette una vita a cambiare i suoi regolamenti e le sue prospettive, ma soprattutto negli altri sport, per coniugare tecnologia e necessità di avere certezza del risultato e di quanto avviene in campo. E allora cominciamo il nostro viaggio dalla pallavolo con un ospite d'eccezione, il commissario tecnico della Polonia, ma ex grande campione della nazionale azzurra e anche allenatore degli azzurri, Andrea Anastasi. Benvenuto coach a bordo campo. Benvenuto, grazie mille, buonasera a tutti. Allora coach, perché siamo venuti a disturbarla fin dalle parti di Varsavia e dintorni? Perché proprio nel campionato polacco, cosa insolita ma non sorprendente, perché la Polonia è nazione all'avanguardia nel movimento pallavolistico mondiale, si sta sperimentando da qualche tempo una sorta di instant replay con un sistema di 14 telecamere a bordo campo, alcune poste anche ad altezza della rete per togliere tutti i dubbi, che in qualche modo sta portando un po' di chiarezza in campo. Ce ne vuole parlare, coach? Ma sicuramente, anche perché essendo un tifoso di calcio della Juventus mi sento un po' chiamato in causa. È fuori discussione che in Polonia hanno fatto un salto di qualità notevole introducendo questo sistema di challenge, di fatto, no? In cui si va a discutere con gli arbitri di qualche chiamata che i giocatori, gli allenatori non condividono. Effettivamente, come ha detto lei, il sistema è molto, molto all'avanguardia e permette di fare chiarezza immediatamente, in pochi secondi, sui dubbi che si hanno sul momento. Penso che sia una cosa molto interessante e anche molto civile. Toglie realmente accredite, toglie rabbia agli addetti ai lavori, toglie rabbia ai fan, perché la cosa viene comunicata immediatamente. Devo dire che è un sistema veramente innovativo. Ecco, 14 telecamere intorno al campo, dicevamo, due poste all'altezza del nastro per vedere anche quelle minime e quasi impercettibili deviazioni che inevitabilmente ci sono quando una schiacciata viaggia ben oltre 100 orari e un muro devia impercettibilmente appunto quel pallone. È un sistema che viene applicato in tutte le partite di campionato in Polonia, coach? Sì, di fatto penso che il sistema sia un po' più snello in campionato, non so se siano 14 telecamere, certamente c'è un numero di telecamere sufficienti, perché c'è una telecamera per ogni linea, quindi sono 4 le telecamere per linea importanti, insomma c'è realmente la copertura totale. Sì, viene utilizzato in ogni partita, ogni società si è dovuta quindi disporre di questo sistema, perché ovviamente il sistema non può andare in giro per la Polonia, ma ogni società ne è a disposizione. Il campionato è molto snello, perché il campionato è composto da 10 squadre, 10 squadre di elite, quindi sono riusciti realmente ad investire anche in tecnologie, e credo che sia un vantaggio non indifferente, anche un senso di civiltà e di voglio dire di un paese che vuole andare avanti, molto importante. Eh sì, ogni squadra ha la possibilità di chiamare due challenge per set, può essere richiesto entro 5 secondi dal capitano e l'azione è rivista dal secondo arbitro e dall'addetto al challenge. Come avviene per il tennis, sport di cui so lei altro è grande appassionato, quando si ha ragione le possibilità di chiedere il challenge restano invariate, altrimenti scalano di una. Insomma, avete fatto bene in Polonia a copiare da Djokovic e Federer. Sì, ma è così, penso che Se penso specialmente al calcio, di cui io sono un grande tifoso e un grande fruitore di questo meraviglioso sport, è frustrante vedere errori di questa natura ed è frustrante sentire le polemiche che scaturiscono questi errori, perché di fatto i giudici di linea, i guardialinee, gli arbitri stessi sono in difficoltà con le palle che viaggiano veloci. È inutile che discutiamo sul fatto, vai, guardialinee in linea doveva guardare, non è così semplice, ci sono molte cose da guardare. Sarebbe molto più civile, molto più interessante, molto più sensato, in un mondo in cui la tecnologia sta prendendo il sopravvento, adeguarsi con strutture di questa levatura. E credo onestamente che sia incapibile il perché non si voglia farlo, se poi si legge tra l'altro l'intervista di Platini che ha fatto immediatamente dopo questo grande errore arbitrale, ancora Platini difende il vecchio sistema, penso che realmente stiano dimostrando un sistema di arretratezza realmente preoccupante. Ecco coach, secondo me questa tecnologia sarebbe l'ideale per il gol non gol, e tra l'altro è già pronta, è sperimentata e da tempo dal CNR di Bari nello stadio di Udine, basterebbe solo dare il via libera. Crede però dovrebbe essere applicata anche a altri aspetti del gioco, come ad esempio il fuorigioco, o è ad esempio lei favorevole ad un'applicazione che poi porti all'introduzione del tempo effettivo? Beh, io sul calcio ho mille dubbi e mille proposte. Certamente l'applicherei a tutte le situazioni del gioco, perché è inammissibile che ci siano tanti errori, ma anche il pugno di Mexès dato a Borriello al secondo minuto del secondo tempo è inammissibile che non venga punito. Del resto, come fanno a vederlo nel corso del gioco? Ci vuole veramente poco e io mi auspico che prima o poi si rendano conto che è indispensabile. Io non voglio dire che si debba arrivare al tempo effettivo, però insomma basta realmente stoppare il tempo o recuperare i 30 secondi e il minuto canonico per una richiesta di challenge da parte di una società, o che il quarto uomo, invece di parlare con, io non capisco la presenza del quarto uomo che non fa altro che parlare con gli allenatori della squadra, delle due squadre, no? Mi piacerebbe che il quarto uomo fosse più coinvolto nell'arbitraggio, non invece nel parlare costantemente. Ci sono tante cose che possono essere fatte e che onestamente ho anche letto sui giornali, ma insomma il problema è che poi non vogliono gli addetti del calcio cambiare le regole. Questo è preoccupante. Forse da questo punto di vista essere uno sport minore, almeno in questo, è una fortuna, no? C'è un po' più di coraggio nel cambiare e nello sperimentare. Ma indubbiamente, io non voglio dire il motivo, non voglio pensare quale sia il motivo perché il calcio non vuole cambiare, però non credo che sia un discorso solo di interessi, perché hanno visto tutti insomma quello che è successo a San Siro sabato sera. Io stesso, che sono juventino, me ne sono reso conto immediatamente che la palla era in porta, però ce ne rendiamo conto perché siamo davanti alla televisione. Se fossimo al campo di calcio non sapremmo se la palla era dentro o fuori, no? È per questo che dico che fare un salto in avanti premierebbe non solo la fortuna ma anche la bravura delle squadre, in questo caso il Milan, ma anche il non gol che l'ho dato a Matri, no? Penso sia stato un altro errore di un guardialinea che non era in grande serata evidentemente, però ha penalizzato realmente il gioco alla fine della partita. Senta, dal problema tecnologico a quello etico-morale che ha scomodato filosofi peripatetici in questi giorni, ma Buffon doveva dirlo o no che quel pallone aveva oltrepassato la riga? Allora, io ho fatto lo sportivo professionista, faccio l'allenatore ad alto livello e purtroppo quando si fa agonismo non si fa sport dilettantistico, non si fa sport di benessere fisico, ma se andiamo in campo sempre ed esclusivamente per cercare di vincere, non siamo interessati alla vittoria etica, ci accontentiamo di un gol, di un autogol per vincere 1-0, ci accontentiamo di qualsiasi cosa perché il nostro obiettivo è vincere. Buffon ha detto una cosa che qualsiasi sportivo avrebbe detto, io l'ho apprezzato per questo, perché credo che alla fine nessuno in un momento del genere avrebbe detto no, guardi arbitro, la palla è in porta. No, ha detto una cosa sacrosanta, io stesso avrei detto così, se un mio giocatore dicesse che la palla è dentro quando l'arbitro non ha fischiato mi arrabbierei col giocatore, probabilmente dal punto di vista etico politico o dal punto di vista moralistico si dice no, si deve dire, sì, bene, però chi fa sport sa che non si deve dire, e Buffon è stato anche in questo caso molto schietto, molto posso dire, con carattere, ha detto cose che qualsiasi sportivo direbbe. Quindi insomma De Coubertin a questo punto si rovescia nella tomba, però. Ma è così. Lei pensi che De Coubertin, che noi giochiamo a pallavolo, o giochiamo a tennis, o giochiamo a calcio, o giochiamo a basket, o facciamo i 100 metri per arrivare secondi? No, vogliamo vincere. De Coubertin è una cosa superata. Quello che ci vuole è il rispetto nei confronti delle vittorie, rispetto nei confronti delle sconfitte. Questo è un altro discorso che potremmo discutere, sarebbe molto interessante. Io una cosa di cui mi sento di dire è che avere il rispetto degli arbitri è importante, nello stesso tempo abbiamo difficoltà a rispettare gli arbitri quando non sono aiutati. Gli arbitri devono essere aiutati, e se possono essere aiutati avremo meno problemi da questo punto di vista. Quindi meglio che l'aiuto arrivi dalla tecnologia e non contare che arrivi dai protagonisti in campo. Senta, ma me lo dica francamente, tanto così siamo in un'ora particolare, non è detto che ci ascoltino in molti, ma quanto ha goduto da juventino quando ha visto quella parata di Buffon con la palla entrata ai mezzo metro? No. Io non sono un tifoso esasperato, nel senso che no, non ho goduto, mi è dispiaciuto. Ho goduto molto al gol di Matri dell'1-1 perché è stata una partita molto complessa per la Juve, onestamente. 60 minuti, un'ora di sofferenza pura in cui non si vedeva la squadra, però poi alla fine è venuta fuori la Juve, il carattere di questa squadra, il carattere che quest'anno ha permesso a questa squadra di fare tutti i risultati utili, che ha un significato, no? E quindi ho goduto al gol di Matri, ma non di certo, no, ero dispiaciuto perché so che avrebbe comunque concatenato una serie di problemi, di polemiche che non fanno bene al calcio, che è uno sport che io amo profondamente. E allora Andrea Anastasi, coach della Polonia di pallavolo, grazie per essere stato ospite a Bordo Campo, ci vediamo a Londra 2012 e coach, basta battere l'Italia, dateci un po' di tregua, si ricordi pure che lei è italiano, è stato il nostro allenatore. Come d'abitudine alle Olimpiadi, lasciateci passare. Va bene, grazie a lei, buona serata. A Bordo Campo. Il cross di Emanuelson, Pirallo mette fuori, Maxence Buffon, e poi Sulle Montari, Manuel gol. Continua il viaggio di Radio 24 e di A Bordo Campo intorno agli sport che cambiano, soprattutto a fronte dell'immobilismo del calcio. L'abbiamo visto tutti nell'ultimo Milan-Juventus, quante polemiche, quante riflessioni morali da parte di pseudofilosofi sono nate da quel gol di Muntari clamorosamente non assegnato dall'arbitro Tagliavento, ma che prodezza ha fatto Gigi Buffon, no? E poi le sue frasi dopo che hanno infiammato gli animi. Ebbene, ad accendersi non sono solo gli animi del calcio, ma anche le luci nella piscina di pallanuoto, vero Maurizio Felugo, attaccante della Pro Recco e campione del mondo con la nazionale azzurra. Benvenuto intanto a Radio 24. Grazie, ciao a tutti. Hai detto bene, diciamo che è un'innovazione tecnologica. È stata inaugurata nelle piscine negli ultimi avvenimenti sportivi che sono sia nazionale che club, cioè delle luci che danno la possibilità, passando con dei cavi LED sotto l'acqua, che danno la possibilità allo spettatore in televisione, soprattutto in tribuna, di capire quali sono poi le zone che nella pallanuoto corrispondono al fuorigioco e alla linea dei 5 metri, da dove poi c'è la possibilità di effettuare il tiro diretto. Eh sì, ci sono questi LED subacquei per indicare le linee dei 2 metri, dove di solito si posizionano in centro boa e le squadre devono evitare il fuorigioco. È la zona dove ve le date di santa ragione, vero Maurizio? Soprattutto in centro boa. E poi dai 5 metri, da dove si può tirare direttamente in porta dopo aver subito un fallo senza passare la palla a un compagno. Un progetto, un sistema messo a punto da Piscine Castiglione e Mircea Puls in concerto con Aquatech Engineering, una società che ha sviluppato questo sistema. Beh, insomma, luci che non solo tornano utili per visualizzare quelle linee che sull'acqua possiamo ora solo immaginare grazie ai tradizionali birilli, ma che anche aumentano un po' la spettacolarità del campo di gioco, no? Sì, perché comunque anche il colpo d'occhio, sia in televisione che dal vivo, è più spettacolare, rende più come dire, suggestivo anche il piano vasca, e con una presentazione un po' all'americana, cioè con l'improvviso buio totale, diciamo, lo spegnere delle luci e i giocatori che entrano con il faro che illumina direttamente il protagonista, rendono tutto molto molto molto spettacolare, che è poi la cosa più importante per attirare il pubblico. Chiaramente in questa maniera si evitano anche incomprensioni e aiutano anche lo spettatore a capire da dove un arbitro decide per un fuorigioco o per un tiro dai 5 metri corretto e viceversa, insomma. Eh sì, insomma, un'indicazione utile anche agli spettatori, perché se c'è un limite magari di uno sport fantastico come la pallanuoto, è che chiaramente gran parte di voi protagonisti non si vede perché è sott'acqua, né chiaramente le linee che determinano poi le varie scelte degli arbitri. Tra l'altro poi tubi lampeggianti anche per indicare gli ultimi 5 secondi dell'azione d'attacco, che dura di solito 30 secondi, anche il cosiddetto pozzetto, no? Dove andate a scontare le vostre espulsioni temporanee, rosso finché si in espulsione e poi verde nel momento in cui rientrate in acqua. Senti, a giocarci per voi nessun pericolo, non è che prendete la scossa, no? No, noi addirittura non ci accorgiamo proprio di niente, perché chiaramente in acqua non vedi il colore, non vedi, i nostri punti di riferimento sono sempre il tabellone dei 30 secondi per il tempo e il tabellone e i birilli, scusami, dei 2 metri, dei 5 metri che delineano appunto queste due zone del campo. Questi sono i nostri punti di riferimento, ma siamo molto favorevoli a questo tipo di aggiunta tecnologica per facilitare appunto la comprensione per tutti. Qualcuno potrebbe dire: che cosa non si fa per uscire dal cono d'ombra del dio pallone, no? Eh beh, chiaro, ma credo che in questo caso il calcio sia veramente uno sport obsoleto, perché è l'unico che, nonostante sia lo sport più praticato al mondo, con probabilmente gli introiti maggiori, è rimasto a regole e applicazioni tecnologiche inesistenti, quindi forse è l'unico sport che ormai non usufruisce di strumenti che potrebbero poi, ahimè io sono juventino, potrebbero anche segnare il risultato o un campionato, falsare appunto il risultato di una partita. Senti, da questo punto di vista, che effetto ti ha fatto vedere quel gol fantasma di Montari? Ma non lo so, mi sembra veramente un'assurdità, ecco. Era un gol straregolare in un momento in cui il Milan comunque stava giocando meglio della Juve, e chiaramente la partita sul 2-0 probabilmente sarebbe stata diversa, però non è la prima volta, è successo tante altre volte, a volte è successo a favore, a volte è successo contro, ma basterebbe poco, ecco, per la situazione del gol non gol. Ecco, nel tennis tirano delle fucilate a 200 e passa all'ora eppure riescono a trovare il millimetro di differenza, e non riesco a capire come il pallone da calcio, che è molto più grosso, non sia possibile con uno strumento del genere, perché comunque sia il guardaline o l'arbitro hanno talmente tante cose da vedere, non dimentichiamoci che ci sono 90.000 persone che guardano la partita, tutto quello che può essere confusione, non è sempre semplice vedere quello che poi in realtà in televisione è banale, ecco. Tu saresti favorevole all'applicazione della tecnologia solamente nel caso del gol non gol, e qui sappiamo che tra l'altro proprio in Italia c'è già tutto pronto e aspettiamo solo il via libera della FIFA, oppure anche un'applicazione più integrale in merito a fuorigioco e altre situazioni di questo tipo? Ma sicuramente quella del gol non gol è la più semplice, quella più ovvia, direi, perché è impossibile dire o avere qualcosa da obiettare quando il pallone entra del tutto o non entra. Ecco, una volta che c'è un computer che te lo dice, sta quello poi come risposta. Il resto, il bello del calcio è anche comunque che l'arbitro è uno dei protagonisti, e è chiaro che il suo metodo di giudizio, che non è sempre lo stesso da arbitro a arbitro, possa anche essere diverso, e sta alla bravura di un giocatore, di una squadra, riuscire ad adeguarsi a quello. Però sicuramente la tecnologia in determinate situazioni può e deve essere presente, perché in caso di errori incredibili dell'arbitro persiste, insomma, si potrebbe ricorrere tranquillamente senza che una partita venga venga falsata e l'arbitro può tranquillamente alzare la mano e dire che ha preso una cantonata, però nessuno avrebbe poi un tipo di lamentela, ecco. Ti chiedo ancora un'ultima cosa, Maurizio, ringraziandoti. Tutto il dibattito intorno alle frasi di Buffon, che ha detto anche se me ne fossi accorto non avrei aiutato l'arbitro. Tu che sei un campione di vertice di uno degli sport d'oro dello sport azzurro, cosa ne pensi? Credo che sia comprensibile quello che ha detto Buffon. Il problema è che detto da Buffon chiaramente in questo momento è stato preso un po' come valvola di sfogo anche per gli stessi arbitri, ma un giocatore che sta in campo, anche nel nostro sport, è talmente concentrato in quello che sta facendo e si allena da tutta la vita per quello che sta facendo, che nel momento della gara poi ovviamente sa che l'arbitro è colui che lo giudica, che giudica le azioni, ma l'atleta ne prende sempre tutto il bene ma anche tutto il male, quindi si pensa esclusivamente a fare gli atleti e una volta ti va male, una volta ti va bene, comunque l'arbitro decide le sorti del nostro gioco o del gioco del calcio, quindi è impossibile che un giocatore a un certo punto intervenga a correggere una funzione o la scelta di un arbitro, è assolutamente impossibile, per di più in una situazione di imprevedibilità come era stata quell'azione lì in cui lui comunque ha parato, ha recuperato il pallone, i compagni erano partiti e chiaramente lui ha fatto il giocatore, ha ripreso l'azione e l'arbitro ha deciso come è giusto che sia. E allora Maurizio Felugo, mano d'oro del Sete Bello e della Prorecco, luci o non luci, l'augurio è quello comunque di fare una grandissima Olimpiade di Londra, ma di questo riparleremo insieme nei prossimi mesi. Intanto grazie per essere stato ospite grazie di Radio 24 e di A Bordo Campo. Grazie a voi, ciao a tutti. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi anche attraverso il blog di A Bordo Campo sempre sul nostro sito internet. L'appuntamento come d'abitudine per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci. We'll be right back.